Per le province del nord-ovest si sta per aprire la stagione del centrodestra. Delle 14 amministrazioni al voto tra Piemonte e Lombardia, PDL e Lega sono quasi sicuri di conquistarne una decina. Il centrosinistra punta a tenere Cremona, difende con le unghie molti rischi Alessandria, ma soprattutto si gioca tutto a Torino e Milano. Il capoluogo piemontese è la ridotta da tenere a tutti i costi per il PD. Al presidente uscente Antonio Saitta, un ex DC che ha puntato molto su politica ambientale, sostegno alle imprese e un buon rapporto con i piccoli comuni, PDL e Lega contrappongono la leader locale dell'API, Claudia Porchietto. L'ultimo sondaggio li dà appaiati. Se si andrà al ballottaggio, spiega Luigi La Spina della Stampa, il candidato dell'UDC Vietti potrebbe essere decisivo, con una prospettiva di lungo termine. Eventualmente, se Vietti appoggiasse il centro-sinistra, poi in prospettiva la stessa alleanza si potrebbe verificare sia per le regionali, cosa che mi sembra più difficile, ma soprattutto per le comunali. A Milano, in termini di forza elettorale, il centrodestra ha già vinto, ma la pratica è diversa dalla teoria. Gian Giacomo Schiavi, del Corriere della Sera, spiega che il presidente uscente Filippo Penati del PD è conosciuto e abile, mentre il suo avversario Guido Podestà è arrivato alla candidatura dopo molte divisioni nel centrodestra. In pratica, se il PD riesce a conquistare il ballottaggio, dice Schiavi, i rapporti di forza si potrebbero invertire a vantaggio di Penati. Se lui si porta sul ballottaggio, effettivamente poi può convogliare su di sé una serie di voti delusi o una serie di voti che possono essere, diciamo così, sfuggiti al primo turno. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore.